80 Serie Oro. Radio 80 Música. Serie Oro. Música. Radio 80 Serie Oro. Radio 80, Serie Oro. La radio musical.